Tempo di Sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte in regia. Domenica dei motori, come avete sentito anche nel giornale radio, inizia il mondiale di Formula 1, il colore più di moda è subito nel deserto il rosso Ferrari, doppietta numero 80 per nella storia del cavallino, vince Alonso. Davanti a Massa, terzo Hamilton, quindi quarto Rosberg, quinto Vettel, sesto Michael Schumacher nella gara del ritorno, poi Button, Webber, nono, magnifica gara per lui di Vitantonio Liuzzi, decimo Barrichello, ultimo in zona punti, diciassettesimo Trulli, l'altro italiano. Poi parliamo naturalmente di Formula 1 con Mario Poltronieri nella seconda ora del nostro programma. 800240024, numero verde per intervenire. Messaggi 349-238-6666. Però se si sono accesi i motori della Formula 1, diverse nel calcio, in Serie A, sembrano avere il motore spento o quantomeno essere in preoccupante riserva di energie, davanti come dietro, perché è un discorso un po' strano che vale per tutte. Non ha il motore che gira a pieni giri la Roma, ormai da un po', e lo sappiamo, e l'indicatore preciso è quello della quantità di gol subiti, finisce 3-3 a Livorno. E dunque l'avvicinamento della Roma all'Inter, altra che sembra avere un motore che gira non benissimo, alla vigilia del Gran Premio più importante, quello d'Europa a Londra contro il Chelsea. Ebbene, 3-3 con la Roma che è andata subito sotto dopo 9 minuti, con Lucarelli, grandissimo protagonista della partita e della giornata, i grandi vecchi, lui come Del Piero, che raggiungono la cifra tonda, 300 gol ufficiali per Del Piero, 200, poi 201, poi 202 per Lucarelli, autore di una tripletta. Segna subito dopo 9 minuti, ma dura un minuto il vantaggio del Livorno. Taddei che con un colpo di tacco libera Perrotta in percussione centrale per la rete dell'1-1. Quindi al 19esimo Roma in vantaggio con un colpo di testa di Toni in posizione peraltro sospetta. Al 26esimo, sempre primo tempo sto parlando, perché oggi abbiamo visto un primo tempo da 16 gol e una domenica complessiva da 30, sono numeri pazzeschi. Dicevo 26esimo, Lucarelli che bellissimo il gol, pescato in profondità e sul filo fuori gioco, ma in posizione regolare, salta Giulio Sergio e va in porta con il pallone. Al 28esimo segna Pizzarro su assist di Perrotta, Pizzarro a rimorchio, Perrotta va sul fondo sulla destra, splendido suo pallone per il cileno che poteva anche segnare la doppietta personale e forse chiudere la partita. 40esimo Knezevic appoggia una mano sulla spalla di Menez che ovviamente si lascia cadere, rigore, Pizzarro palo pieno e si resta sul 3-2 per la Roma, ma nella ripresa c'è un altro rigore, fallo di mano di Juan e Lucarelli segna la sua personale tripletta, 3-3 dunque tra Livorno e Roma. Motore che si accende solo per 10 minuti, quello della Juventus, altra partita incredibile, perché dopo 10 minuti la Juventus vinceva 3-0 in casa con il Siena. Dopo 2 minuti segna Dal Piero in tap-in dopo un tiro di Candreva. Al 7esimo Marchisio libera Del Piero che quindi si toglie subito così lo sfizio dei gol numero 300 e 301 della carriera. Al 10esimo gran destro di Candreva per il 3-0 e tutti a dire vabbè, questa è finita, passiamo oltre. Non è così. Al 16esimo gran gol di Maccarone, 3-1 e il Siena prova a crederci. Nella ripresa la Juventus rimane ridotta all'osso in difesa perché si fa male alle grottaglie, quindi ha adotto uno schieramento strano, ma una difesa juventina che non convince neanche un po'. Non so se si può parlare di presunzione, se è una Juventus che ha staccato la spina dopo il 3-0, se c'entra qualcosa l'Europa League, è difficile dirlo, fatto sta che l'atteggiamento complessivo della Juventus messa ai paletti dal Siena e alla fine rimontata con grandi tensioni, con Felipe Melo che perde la pazienza a un certo punto per i continui fischi, manda ripetutamente e vistosamente quel paese la tifoseria juventina che lo becca. Comunque, detto questo, al primo minuto della ripresa Gezal segna il gol del 3-2 recuperando quindi in tap-in dopo un palo colpito dal solito Maccarone. Un altro palo pieno lo colpisce Ziolis, altro giocatore del Siena, a testimonianza del fatto che appunto la Juventus nel secondo tempo è stata davvero chiusa nell'angolo dal Siena, ultimo della classe. E il meritato pareggio arriva al 28esimo, fallo di Grigera nettissimo su Maccarone, rigore concesso e Gezal che lo trasforma, doppietta per lui ed è 3-3. Poi una gara stranissima, non bella secondo me, tra Genoa e Cagliari, nonostante gli 8 gol segnati, perché ho l'impressione che il Cagliari stia già pensando più che all'Europa, alle vacanze. Forse, insomma, non so quanta voglia Cellino abbia di guidare il pellegrinaggio sardo in giro per l'Europa, suppongo poca. Non riesco a spiegarmi altrimenti l'andamento di questa gara con il Genoa, che colpisce un palo all'ottavo con Sculli, una traversa al quindicesimo con Bocchetti, che incredibilmente prende un gol al sedicesimo da De Sena, quindi il Cagliari va in vantaggio, ma è un assedio continuo quello del Genoa. Nuovo palo e siamo a tre con Marco Rossi, poi cominciano ad arrivare, dopo i pali arrivano anche i gol. Al 35esimo segna Zapater su rigore, al 39esimo segna Palacio su assist di Palladino, al 41esimo il Cagliari che pareggia con Conti, nella ripresa solo Genoa in modo strabordante, 43esimo testa di Sculli, 45esimo girata di Marco Rossi, siamo a 4-2, rigore per il Cagliari, trasforma Matri, così mette a posto anche la classifica cannonieri. Al 15esimo il quinto gol genuano segna Milanetto, sono 5 reti con 5 giocatori diversi per il Genoa, ma un'infinità di palle gol costruite per il Genoa, che sembrava il Barcellona, al di là dei colori della maglietta, che sono l'unica, insomma, somiglianza vera tra Genoa e Barça. Motore spentissimo, addirittura fuso, secondo me, quello della Lazio, che perde 2-0 in casa con il Bari. E io mi domando a questo punto se, quando e con chi la Lazio potrà fare punti. Bari che, insomma, ha una splendida classifica, non aveva l'assillo nemmeno di andare lì per strappare un pareggio, poteva giocarsela, ma non, insomma, la classica gara da vincere per salvarti, ecco, e invece la perdi, la Lazio la perde. Al sesto punizione da destra, Muslera fa un'uscita addirittura comica, Almirón lo anticipa e segna il gol dell'1-0, al 19esimo in contropiede su una palla persa a centrocampo dalla Lazio segna Alvarez e siamo 2-0, al 30esimo viene concesso un rigore alla Lazio, rigore in mischia per trattenuta su Cruz, ma Kolarov se lo fa parare da Gillet e questo è un altro segnale assolutamente preoccupante. Anche l'Atalanta, che pure dovrebbe essere nota per salvarsi, non fa moltissimo, anzi non fa praticamente nulla a Parma e perde la partita. 26esimo Crespo da sinistra, serve Bojinov, colpo di testa 1-0, al 28esimo espulso Doni, che dunque salterà, così come Tiribocchi, che era diffidato ed è stato ammonito, la prossima gara con il Livorno, che sarà una sorta di spareggio per chi vuole ancora sperare. Altro motore spento, anche qui un po' sorprendentemente, quello del Palermo, che perde a Udine 3-2 in maniera anche meritata, soprattutto se si considera il primo tempo che l'Udinese aveva chiuso in vantaggio con gol di Floro Flores al 44esimo. Ne ha ripreso un Palermo certamente migliore, ma un Palermo che ha subito molto, al contrario di quanto è accaduto nelle ultime esibizioni degli uomini degli Orossi. Sesto minuto, Micoli che serve Simplicio, appena entrato, inserimento centrale, gol dell'1-1, quindi al 20esimo di nuovo l'Udinese in vantaggio con lo stesso Floro Flores, molto bello il suo gol in diagonale, ma molto bella e soprattutto l'azione del terzo gol dell'Udinese, 26esimo, con un tocco geniale addirittura di Di Natale per Asamoah, che appunto porta a 3 i gol dell'Udinese. Nel finale una rovesciata di Cavani, anche qui gol molto spettacolare per il 3-2, ma Palermo che a questo punto rimane appunto quarto da solo, ma più che altro per l'incapacità delle altre di raggiungerlo, ecco. Come detto, finisce 1-1 tra Bologna e Sampdoria, gara in cui non succede nulla, solo nel finale Gastaldello al 42esimo per la Samp, al 48esimo gol molto discusso di Raggi. Prima del traffico volevo sentire una battuta di Ranieri, mi sembra il caso, con Sky. Claudio, ce li abbiamo pronti, guarda. Li abbiamo, mi vuoi fatti far star male ancora una volta? No, ti volevamo chiedere se tu avevi chiesto alla difesa di stare, di fare il fuorigioco e di stare alta, effettivamente, perché credo che ti riferisca proprio a quello, no? La difesa era male allineata. Giovanni te la fa vedere un attimo. Sì, sono situazioni molto simili. Vabbè, adesso noi sentiamo il traffico, poi sentiamo cosa avrà da dire Ranieri su, appunto, lo dicevo prima, la difesa da Roma, che è il vero termometro dello stato di salute di questa squadra. Strade in diretta. Sul tratto appenninico dell'Autosole ci sono code dopo un incidente tra Rioveggio e Roncobilaccio verso Firenze. Per un altro incidente rallentamenti anche attorno a Roma sulla A24 tra via Fiorentini e via Togliatti verso il grande raccordo anulare. Ma le difficoltà maggiori in queste ore sono in Liguria. Sulla A10 Genova Ventimiglia ci sono molti veicoli in viaggio lungo la carreggiata in direzione di Genova e ci sono forti rallentamenti superiori ai 20 km a partire da Pietra Ligure e fino a Genova. Molti veicoli ostacoli in viaggio anche sulla A4 Brescia-Padova, con code in uscita a Desenzano sia in direzione Brescia che in direzione Padova. Infine, in Calabria è sempre chiusa la A3 sia nel tratto tra Rogliano e Falerna per una frana, che tra Pizzo Calabro e Sant'Onofrio, in questo caso per un cantiere, che dovrebbe terminare alle ore 20. Con questo è tutto, ci risentiamo tra mezz'ora. Tempo di sport. Luca Ranieri con Sky. Buona partita. Beh, perché noi l'abbiamo visto un po' buono nel primo tempo. Sì, nel primo tempo ha fatto buone cose. Lui non è abituato a giocare lì largo a sinistra, però insomma quando siamo riusciti a chiamarlo in causa ha fatto delle cose interessanti, per cui sono contento. Lui è a bulico perché magari vorrebbe stare di più al centro del gioco, però insomma non possiamo avere tutto. Sta parlando di Venezia, per cui un pochettino di sacrifici bisogna che si facciano. Mario? Claudio, ci sono 18 risultati consecutivi per la Roma utili, però ci sono anche 3 pareggi nelle ultime 3 partite. Tu dici giustamente che sì, non puoi rimproverare niente, però la Roma non ha vinto. Questo significa che manca ancora qualcosa per diventare una squadra, una grande squadra, una squadra veramente competitiva. Beh, questo l'abbiamo detto da sempre, insomma, siamo una buona squadra, una squadra che sta facendo un ottimo campionato, ma è logico che manca un qualcosa per poterci confrontare da pari a pari con il Milan, con l'Inter, però stiamo lì, non vogliamo mollare nulla. È vero che abbiamo fatto i 18 risultati utili, è vero che ci manca un qualcosina, anche quel pizzico di fortuna, perché prendere il palo sul calcio di rigore, vai sul 4-2 al 90% e chiusa la partita. Per cui l'impegno c'è, e se abbiamo sbagliato nei primi 2 gol lavoreremo per non sbagliare ancora. Questo è Claudio Ranieri, tra poco sentiremo anche Zaccheroni, sono curioso di conoscere l'analisi di Zaccheroni su questo pomeriggio incredibile della Juventus. Nell'attesa però facciamo un salto a Parigi, perché è appena finita anche Francia-Italia di rugby 6 nazioni. Giacomo Bagnasco, buongiorno. Buon pomeriggio Carlo, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Com'è finita, Giacomo? Io non ho dato ancora il punteggio finale. La partita è finita 46-20 per la Francia, primo tempo 22-3, un incontro dominato dai padroni di casa, con l'Italia che ha avuto la parziale soddisfazione di segnare 2 mete nel finale con Del Fava e Canavosio. Un punteggio un po' meno brutale nei confronti degli azzurri, che però sono riusciti ad esprimere qualcosa a livello di gioco nell'ultima parte della gara, e prima hanno subito questa squadra straripante, una squadra che è riuscita a conquistare molti palloni ed è riuscita a penetrare con una certa facilità nella difesa azzurra. Avevamo subito 3 mete nei primi 3 incontri e ne abbiamo subite 6 qui allo Stade de France, 3 nel primo tempo e 3 nel secondo tempo. Le segnature della Francia: una doppietta di Marti e una meta di Arin Ordoqui nel primo tempo, nella ripresa le mete di André Josion e Lapandry. André, uno dei simboli di questa Francia oggi, un giocatore alto 1,70 m per 75 kg che si fa beffe del cosiddetto kilo rugby e che ha giocato una partita notevolissima, così come il terza linea centro Arin Ordoqui. E comunque è stata una prova di forza della Francia, che a questo punto, a un turno dalla chiusura, è comunque già praticamente certa di avere vinto il torneo, ha una differenza punti decisamente superiore all'Irlanda, che è l'unica che la potrebbe raggiungere. Ricordiamo che la Francia è la sola squadra ad aver vinto tutte le partite in questo torneo. I francesi ospiteranno l'Inghilterra sabato prossimo per l'ultima gara, puntano anche al grande slam e insomma oggi hanno fatto vedere anche il loro gioco, il tradizionale rugby champagne. Sotto questo punto di vista hanno fatto qualcosa in più anche rispetto alle prime 3 partite del torneo. Per gli azzurri la soddisfazione, se possiamo così definirla, di aver visto che ci sono rincalzi all'altezza dei titolari. La prima meta è stata segnata da Del Fava, che era subentrato a Bortolami, ed è stato servito da Derbyshire su un pallone rubato a metà campo, una bella iniziativa di questo giovane ora in forza al Petrarca, e la palla a Del Fava, prima meta in azzurro per Del Fava. E la poi Cannavosio che comunque insomma ha segnato questa meta molto meno importante di quella precedente contro la Scozia, ma sarebbe anche il caso magari trovasse un po' più di spazio dall'inizio. Insomma, pomeriggio non brillante, mi pare di capire, per gli azzurri, su un campo impossibile per la verità come quello di Parigi, però 46 punti subiti, anche qui non sono un bel segnale per l'Italia del rugby, che fa della difesa il suo punto di forza. Io ringrazio Giacomo Bagnasco, adesso devo tornare alla cronaca calcistica. Sta parlando Marino, sta per parlare Zaccheroni e sta per parlare con noi anche Massimo Callegari da Mediaset. Ciao Massimo, non mi sente Massimo Callegari, ci riproveremo tra un istante. Sentiremo anche la voce naturalmente dei nostri ascoltatori tra pochissimo. 800 24 00 24, il numero verde, e cominceremo a parlare con loro. Ma secondo lei cosa è cambiato alla Juve con l'arrivo di Zaccheroni? Domanda Cristian da Padova. Abbiamo un po' più di logicità, c'è in questa Juventus. È curioso dirlo in questo pomeriggio assolutamente illogico dei bianconeri, però comunque è una Juventus con mille problemi, ma senz'altro più un po' più competitiva rispetto a quella all'ultima di Ferrari, insomma. Zaccheroni con Sky. No, adesso a caldo, ma un'altra partita del genere onestamente non me la ricordo, almeno il vantaggio in questa maniera è raggiunto dagli avversari, no di certo. Poi dopo, se qualche partita la mia squadra ha rimediata, onestamente adesso non ricordo. La spiegazione a caldo è sempre approssimativa, bisogna sempre andare a verificare poi dopo nei dettagli. Sicuramente nel primo tempo è stato più un problema di testa che un problema fisico, poi nel secondo tempo siamo anche calati un pochino fisicamente, chi ha giocato giovedì sera un pochino l'ha pagato, però adesso verificherò quando lo riguarderò con attenzione, però la sensazione mia è che noi abbiamo indovinato alla perfezione l'approccio alla partita, che era l'aspetto più importante quando una squadra sta crescendo come la nostra ed affronta l'ultima in classifica. C'è il rischio di sottovalutarla, mi ero raccomandato molto sull'approccio e devo dire che sono stati bravissimi. 3 gol in 10 minuti, manovra fluida, veloce, tenevamo il campo molto bene. Poi dopo abbiamo commesso un errore che ha messo in condizioni loro di... un errore che può succedere, perché di sbagliare può succedere a tutti. E in quell'occasione, preso il gol, noi siamo lo usciti facciamo vedere, dalla Alberto. Partita. Ecco Alberto, ti riferivi a quello... No, da lì puoi fare un errore, puoi prendere un gol, però uscire dalla partita è, io credo, almeno preoccupante. Massimo Callegari, buonasera, ci sei? Ciao, buonasera. Ciao Massimo. No, dice un po' preoccupante, eh? Juventus che dice abbiamo indovinato, azzeccato l'abbroccio alla partita sul 3-0, però tutti a casa, mancavano però un'ottantina di minuti abbondanti e ha giocato solo il Siena da lì in poi. No, è vero, intanto... grandissimo onore a Malesani, perché appena ci sono state le condizioni, mi sembra dopo 12-13 minuti, ha inserito la Rondo, l'attaccante, e stato tale, quindi non ha comunque desistito, anche se stava perdendo 3-0-3-1. E poi ci sono dei segnali molto preoccupanti, anche perché la Juventus, che nella fase difensiva ha dei limiti incredibili. Tutto si rifà ancora una volta la campagna acquisti di quest'estate, perché oggi c'era Cannavaro, difensore centrale, quando si è fatto male alle grottaglie, Grigera, che già era stato disastroso a destra, è stato scalato al centro e ha completato la sua giornata con il fallo da rigore. E poi la mancanza di un giocatore a centrocampo che riesca a gestire non solo i momenti di impeto, ma anche quelli un po' in cui la squadra è in vantaggio, può tutelarsi, controllare i tempi della partita, è sempre più evidente, non è un caso che la gente se la prenda con Felipe Melo, anche se non è l'unico colpevole, insomma. Certo. Massimo, invece, la dicevo prima, la Roma in questo campionato in cui insomma diversi sono i motori che non funzionano, no? Nella domenica dell'inizio della Formula 1 funzionano benissimo i motori da Ferrari, molto meno bene quelli che vedi in giro nel campionato italiano. Roma che fallisce la possibilità di avvicinarsi in maniera sensibile all'Inter, ma soprattutto una Roma che, la storia delle ultime domeniche, tre pareggi lo testimonia, ma soprattutto una Roma che aveva costruito sull'impenetrabilità difensiva il suo cammino, la sua rimonta, la sua marcia, e che alla fine ne prende tre a Livorno. Sì, in queste situazioni c'è sempre una componente di anche inconscia di così, rilassamento psicologico. Quando una squadra fa una serie così lunga e quando recupera da una situazione così complicata come quella di partenza, quando Ranieri era arrivato, la Roma dopo due giornate era a zero punti, poi ha recuperato, è arrivata lì, poi l'ultimo salto di qualità è sempre più difficile, lo è stato oggettivamente sempre nella carriera di Ranieri. Lui continua, quando arriva a queste situazioni, a mettere il piede sul freno, non sull'acceleratore, anche dal punto di vista psicologico e dell'entusiasmo. Nessuno può dirci se questa è la causa principale, però anche questo contribuisce a volte a limitare poi le capacità delle sue squadre di compiere l'ultimo salto di qualità, perché la Roma nel prossimo turno ha l'Udinese in casa, l'Inter va a Palermo e poi c'è lo scontro diretto, quindi questa certo. Era un'occasione era capolosa. Era il momento questo per la Roma, cioè tu dici Ranieri è un po' troppo prudente anche nelle dichiarazioni e quindi non riesce a caricare a sufficienza l'ambiente? Un po' sì, poi a Roma non si sa mai quale sia il modo la strategia migliore, di lavorare certo. In questo senso, però lui l'ha sempre fatto, insomma, anche a Torino, anche lì probabilmente aveva le sue ragioni, perché non a caso poi la Juve anche questa volta appena alza un po' l'asticella, no? Quando ha cominciato a parlare di terza stella è arrivato il dramma, ha perso col Napoli e poi tutto il resto. E adesso che parlava addirittura del terzo posto, oggi non è riuscito ad agganciare il quarto nonostante il Palermo abbia perso. Sì, questo sì. Senti Massimo, prima di salutarti, invece un'altra squadra che non mi aspettavo in queste condizioni psicofisiche è la Lazio, perché insomma molti mi chiedono ma la Lazio retrocede davvero? Guardo l'organico e dico ma no, è impossibile, però francamente anche di fronte all'ennesima riprova, partita di oggi con il Bari, non riesco a capire dove questa squadra possa a questo punto fare punti. Insomma, dietro vanno piano, no? Perché al di là del Siena e del Livorno che hanno fatto la loro impresa di giornata, l'Atalanta ha perso ancora con il Parma e non mi sembra una squadra che scoppia di salute. Insomma, la Lazio, francamente, pur avendo questi due punticini di vantaggio sul Livorno e questi quattro punti su Atalanta e Siena, non vedo come e dove possa andare a prendere punti. No, questo è vero, anche perché la situazione ambientale ogni settimana che passa è sempre peggiore. L'allenatore fa partire una scuola italiana che, come stiamo vedendo in questo campionato, paga sempre meno, nel senso che anche di recente, insomma, oggi l'Udinese con Marino, il Palermo con Delio Rossi, Malesani stesso che comunque è un allenatore d'attacco, Ventura, sono questi gli allenatori che danno qualcosa in più alle loro squadre. Raya non lo sta facendo, è arrivato in una situazione drammatica, non so se in questo momento lui stia pentendo di aver lasciato Spalato per tornare in questa baraonda a Roma. Non so neanche se lo Tito stia pensando di riprendere Ballardini, però i problemi sono molto strutturali, partono da quest'estate, Pande, Ledesma, certo. Zarate e tutto il resto, e l'orizzonte è veramente fosco. È stato l'inizio della valanga che sta travolgendo la Lazio. Grazie a Massimo Callegari. Io direi facciamo un salto a Livorno, dove c'è Leonardo Ciancarella, nostro corrispondente. Buonasera. Carlo, ti metto subito, sta parlando Davide, ancora parlando, vediamo. Aspetta che stavo cercando di intercettare, avevamo un Pizzarro finora, sì. E l'hanno spostato, c'è Tony Brown hanno spostato Pizzarro, sì, come no. Quindi se vuoi ci risentiamo tra un pochino con benissimo, Tony, benissimo. Rimango in pole position. Guarda, io ho giusto una pausa da lanciare in questo istante, subito dopo ci sentiamo. Radio 24 presenta Destini incrociati, incontri che cambiano la vita. Un paese da ricostruire per superare un passato di divisioni. Uno sport, il rugby, che ha la sua grande vetrina mondiale. La storia di Nelson Mandela e François Pienaar sullo sfondo del Sudafrica. Domani a Destini incrociati. Destini incrociati. Tutti i giorni alle 15 e alle 23 su Radio 24. L'altra sera Luigi, Mario, Alberto sono caduti tutti davanti ai miei piedi. Si sono innamorati? No, giocavamo a bowling e ho sbagliato mira. Fai strike con i nuovi incentivi Lancia. Y tua da 8.900 euro anche senza usato da rottamare. E sulla gamma Lancia GPL EcoChic il GPL è gratis. Scoprila sabato e domenica. Offerta valida con il contributo dei concessionari Lancia aderenti fino al 31 marzo. Belphegor, il fantasma del Louvre. Lo sceneggiato che ha terrorizzato intere generazioni. Belphegor, mistero, intrighi e fantasmi. Nella Parigi degli anni 60. Il primo DVD è già in edicola, da Hobby & Work. Ciao Mario, sai che la nonna sta facendo raccogliere i punti ESSO Extras a tutta la famiglia? Sì, sì, me l'ha detto. E beh, potremmo prendere la TV LCD da 24 pollici. Ma cos'è questo rumore? È il mio nuovo LCD da 24 pollici. Ah. ESSO Extras, con i nuovi premi dal televisore al beauty case, non c'è da stupirsi se tutti si premiano. Raccogli i punti insieme ai tuoi amici e familiari. Operazione a premi, un litro di carburante uguale un punto ESSO Extras. Punti necessari, limitazioni e regolamento su essoextras.com. Palleggio frenetico, passaggio corto, palla che schizza a destra, a sinistra, in alto, no, in basso, fallaccio. La palla vola, finta di corpo, all'ala, al petto, magico recupero a centrocampo. L'ha recuperata, ma dove va? Dove va? Credit Reforma, con più di un secolo di esperienza, recupera i tuoi crediti nel mondo con efficacia, velocità e talento. Chiama il numero verde 800 425 325 oppure collegati a creditreforma.it. Quando Credit Reforma entra in azione, non perde mai la palla. Soluzioni magazzino? Chiedi di più. Chiedi a Modul Block. Vi presenta Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. L'alta pressione torna ad espandersi dall'Europa occidentale verso l'Italia, mentre sul suo bordo orientale affluisce ancora dell'aria fredda diretta principalmente verso la penisola balcanica. Nelle prossime ore e nella giornata di domani avremo una prevalenza di bel tempo sull'Italia con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche annuvolamento in più lo ritroveremo domani lungo le Alpi, lungo la dorsale appenninica, nelle zone interne del centro e in Sardegna, con isolati e deboli piovaschi pomeridiani in Toscana, nelle zone interne tra Abruzzo e Molise. Le temperature minime si manterranno intorno allo zero al centro-nord, con ancora qualche debole gelata. Clima più mite in giornata, con massime un po' dappertutto fino ai 14-16 gradi. Per concludere vi segnalo ancora venti piuttosto sostenuti al sud, in particolare domani avremo forte maestrale su mare di Sardegna e canali delle isole, locali episodi di fön al nord-ovest. Con questo è tutto, altri dettagli sul sito meteo.it. Oggi puoi andare in farmacia e tornare a casa. Oppure puoi andare in farmacia, pagare con Visa, giocare le ricevute di pagamento per vincere un TV LCD Sony Bravia 52 pollici al giorno e ad estrazione un viaggio ai mondiali FIFA 2010 in Sudafrica per vedere una partita o la grande finale! Gioca con Visa fino al 25 aprile su visaitalia.com o chiama lo 0543 465055. La vita va presa con Visa. Visa è partner ufficiale FIFA. Montepremi 239.900 euro. Regolamento su visaitalia.com. Vodafone Partita IVA, buongiorno, sono Enzo. E sono Carla, ho un negozio di fiori e spendo troppo in telefonate. Cosa mi consiglia? Beh, la nuova offerta parla facile. Tutte le chiamate che le servono e il cellulare è incluso. La pagherà profumatamente. Al contrario, sentirà che risparmio. Passa a Vodafone Partita IVA. Entro il 31 marzo puoi avere parla facile al prezzo speciale di 25 euro al mese. Un vero affare per chi ha la partita IVA. Per limiti, condizioni e costi vieni su Vodafone.it o chiama l'800 127 777. Vodafone. Quattro ruote motrici per il sistema di trazione integrale permanente più evoluto della categoria. Tre differenziali effettivi che interagiscono con il sistema 4 ESP. Massima dinamica di guida, sicurezza e comfort in qualunque condizione. Nuova classe E-Formatic, a trazione integrale. Entrate nel mondo delle quattro ruote motrici Mercedes-Benz. Il 20 e 21 marzo il 4Matic è incluso nel prezzo e il vostro usato vale come se avesse un anno in meno. Negli showroom Mercedes-Benz, offerta soggetta a restrizioni. Info su mercedesbenz.it. Quando hai iniziato i soldi facevano un rumore diverso. Anche la carta di credito. E quando davo il resto. La tua attività si è evoluta. E il tuo conto corrente? Scopri la nuova offerta di Poste Italiane dedicata alle piccole e medie imprese e ai professionisti. Banco Posta in proprio POS. Il conto completo, semplice e conveniente pensato per chi gestisce incassi e pagamenti. Banco Posta in proprio POS. Per chi di buoni affari se ne intende. Poste Italiane. fogli informativi negli uffici postali e su poste.it. A tempo di sport. Per cominciare il momento degli ascoltatori, vedo già Massimiliano da Bologna e Roberto da Milano in linea. 800240024, numero verde, messaggi 349-238-6666. Però dopo che ci hanno spostato Pizzarro a Livorno, vorrei almeno avere da Leonardo Ciancarella una impressione, perché prima Massimo Callegari ha offerto una lettura interessante, cioè Ranieri, a furia di tirare il freno in questo momento in cui l'Inter si è insabbiata, la Roma, approfittando anche del calendario, poteva avere lo sprint decisivo per avvicinarsi in maniera incredibile ai nerazzurri, ebbene una Roma che non va più, non so se perché è finita la benzina o proprio per questo atteggiamento di Ranieri, che forse non ha tolto un po' di convinzione alla sua squadra. Che impressione hai avuto, Leonardo? Ma io ho visto una partita un po' divisa in due tempi, Carlo, perché nel primo tempo la Roma era andata molto bene, anche se era riuscita a farsi diciamo bucare due volte da un attacco non proprio atomico come quello del Livorno, però dava l'impressione di controllare la partita, e non scordiamoci che aveva avuto l'occasione di portarsi sul 4-2 con il rigore calciato sul palo da Pizzarro. Poi nel secondo tempo, complice un po' anche un Lucarelli che è ritornato ai tempi di Donadoni, perché un Cristiano a questi livelli non si vedeva da tempo, un vero capopopolo che ha trascinato la sua squadra, è venuta un po' meno sul piano dell'intensità e alla fine porta via un pareggio che è soltanto tanto di occasione sprecata, perché il Livorno alla fine pensava solo a spazzare via la palla dalla propria area, non credendo a questo risultato, ci credevano veramente in pochi che oggi Livorno potesse fare punti. Probabilmente Ranieri ha tenuto sempre molto sotto traccia una sorta di sogno di avvicinare l'Inter, adesso che doveva dare la zampata decisiva forse si è trovata un po' con il braccio corto, cioè la Roma è sembrata mancare sul lato dei nervi, e questo ti volevo segnalare, parecchio nervosismo. Infatti poi magari mi correggerete se mi sbaglio, ma penso di no, la Roma ha avuto ammoniti praticamente tutto il centrocampo diffidato, e quindi la prossima partita con l'Udinese sarà senza De Rossi, Pizzarro, Taddei ed anche Mexès. Tra l'altro De Rossi dovrebbe aver fatto un qualcosa per un trentesimo, un calcio da dietro su Diniz non visto dall'arbitro, quindi questo ti fa capire come prima c'era una certa sicurezza, ma nel corso della partita questa è venuta meno, anche perché si giocava in una vera e propria bolgia, credimi, perché sì, oggi il pubblico di Livorno ha spinto tantissimo. Sì, era una delle ultime scelte. Tra l'altro Livorno aveva fuori un sacco di giocatori, se non sbaglio 7 titolari, comunque squadra ampiamente rimaneggiata, però dici bene tu, quando Lucarelli si veste da capopopolo e poi infila 3 gol, tra l'altro qualcosa può cambiare. Voglio chiederti ancora questo, dal punto di vista fisico invece, che impressione ti ha fatto la Roma? Perché io ho l'impressione anche di una squadra che, al di là dei nervi, al di là della scarsa convinzione che forse trasmette Ranieri, ho avuto l'impressione nelle ultime giornate anche di una gara, di una squadra in riserva di benzina. Sicuramente sì, ti faccio un esempio, anzi due, che possono far capire. Nelle scorse settimane abbiamo ammirato un Rise in condizioni fantastiche, gol decisivi, diciamo anche un mesetto fa, e lo stesso Tonetto, cioè c'era molto movimento e molta spinta sulle fasce, oggi non si sono quasi mai visti, anzi Motta, che era chiamato a coprire la fascia destra, si è reso protagonista, tra virgolette, di due diciamo disattenzione in difesa che hanno portato Lucarelli ad essere in gioco nel primo e nel secondo gol, quindi sicuramente alla Roma è mancato qualcosa dal punto di vista anche fisico, cosa che invece Livorno forse anche sulla spinta dei nervi ha avuto. Ti volevo sottolineare una cosa che mi fa piacere, è stato molto bravo l'arbitro a mio avviso, anche se si discuterà forse sul fallo di mano di Juan, perché saprai che l'arbitro doveva essere Romeo, che si è fatto male nel riscaldamento, ed il quarto uomo Gervasoni all'ultimo minuto è stato diciamo buttato in campo al posto suo, ed è stato bravo soprattutto a gestire una partita molto spigolosa, molto nervosa, con 9 ammoniti tra una parte e l'altra, e quindi gli va fatto un plauso. Ti dico un'ultima cosa molto simpatica, poi tra un po' cerchiamo di bloccare Montali perché anche Toni l'ha portato via, l'hanno portato via. Ti dico un'ultima cosa molto simpatica. A un certo punto c'è stato un contrasto tra Rivas e Toni. L'attaccante, il difensore livornese, è subito rientrato in campo. Toni invece aveva la maglia stappata, il quarto uomo Romeo, non l'ha fatto rientrare in campo finché il team manager Caglia non è corso negli spogliatoi a cercare una maglia. La Roma ha giocato 4-5 minuti in 10 con Toni con la maglia strappata a bordo campo. E che era lì che dice, allora me la portate no questa maglietta. Grazie Leonardo Ciancarella. Eddie Rea, poveretta, davvero la faccia color della cera, sentiamolo con Sky. È un momento un po' particolare, chiaramente questa è una squadra che ha sicuramente dei mezzi, ma non è abituata a lottare nei bassi fondi della classifica, bisogna avere, tirare fuori, diciamo, bisogna andare oltre a ogni energia, perché per lottare, per rimanere, lottare per la salvezza, per rimanere in Serie A, insomma, bisogna avere chiaramente uno spirito molto più forte. L'impressione è che questa squadra scende in campo anche con paura? Un po' di timore c'è, sì, sicuramente, sì. L'aspetto mentale. Diventa difficile trovare ritmi, è una squadra che ha magari certe caratteristiche, non è abituata a lottare nei bassi fondi della classifica, è abituata a lottare sempre da metà classifica in avanti. Adesso per saltare fuori chiaramente bisogna stringerci tutti quanti, lottare tutti quanti, avere il concetto di squadra soprattutto. Così è di Rea, però mi sembra un ambiente ben oltre la crisi di nervi, quello biancoceleste. Ripeto, vista la partita di oggi, visto il modo in cui la Lazio l'ha giocata e l'ha persa, senza fare nulla fino a quando ha subito il gol di Almiron e poi ha beccato subito il raddoppio con un errore abbastanza clamoroso a centrocampo che ha aperto al Bari le porte del contropiede, il rigore sbagliato da Kolarov che poteva aprire la partita. Tutta onestà, non vedo dove questa squadra possa andare a prendere i punti salvezza. Dunque c'è un Filippo che mi domanda il risultato del Gran Premio, l'ho già detto in apertura, lo ripeto volentieri, dopo le 18 con Mario Poltronieri, tutti i commenti che volete. Doppietta Ferrari, Alonso davanti a Massa, poi Hamilton, Rosberg, Vettel, Schumacher, Button, Webber, nono Liuzzi, decimo Barrichello. Questo è l'ordine d'arrivo della Bahrain. Ma tornerei sul calcio. Massimiliano da Bologna, buonasera. Buonasera, innanzitutto sono molto contento di parlare con lei. Reciproco. Io vorrei fare notare una cosa che per adesso in trasmissione televisiva non ho sentito da nessuno e credo neanche voi, e che è una cosa secondo me di una gravità incredibile. Cioè Zaccheroni ha fatto un errore che secondo me non si fa, penso, nei campionati della parrocchia. Cioè Camoranesi, penso che lo sanno anche chi non se ne intende di calcio, un centrocampista offensivo. Tu stai vincendo 3-1 e togli un centrocampista che tutto sommato può anche difendere come De Ceglie, per mettere Camoranesi, che ovviamente dopo la distanza da Saliamidis quando è entrato minimo erano 30-40 metri, infatti attaccavano solo da quella parte lì, sì. Mettendo dopo ovviamente in mezzo alla difesa Grigherà, che è stato l'autore di tutti e tre i gol, voi avete detto sì, del terzo e del primo, ma anche del secondo, perché è stato a 10 metri da Maccarone che ha tranquillamente riuscito a tirare. Ma, guardi Massimiliano, Grigherà è un problema quando gioca nel suo ruolo, si figuri fuori ruolo. Ma la cosa che ha dell'incredibile è che secondo me se non tirava via Maccarone potevano vincere la partita. Evidentemente non ne aveva più Maccarone. Lei ha visto, da come la sento parlare, ha guardato la partita con attenzione molto più di quanto non abbia potuto fare io. Però la sensazione è che abbia tolto Maccarone, che era stato il dominatore della partita, probabilmente perché non ne aveva più. Però mettere un centrocampista offensivo quando stai vincendo una partita per me è abbastanza incredibile. Poi vabbè, hai preso gol dopo 10 secondi, si è fatto male Grottaglia, ma io non ho mai visto un allenatore che sta vincendo e mette un giocatore offensivo. Comunque vabbè, è andata così. No, ma che è curiosa, è stata curiosa la chiave di lettura che ha proposto Zaccheroni. Abbiamo indovinato l'approccio alla partita, come se tu potessi sbagliare l'approccio alla partita, al di là del fatto che c'era il Siena, ma come se tu potessi sbagliare l'approccio alla partita quando sei lì a lottare con il coltello tra i denti per conquistare un quarto posto che fa tutta la differenza del mondo. Quindi non posso pensare che sia una questione di atteggiamento e di approccio alla partita. Poi approcci bene la partita, vinci 3-0 dopo 10 minuti e poi scompari, vai a casa come ha fatto la Juventus oggi. Questo trovo veramente incomprensibile e non so se può avere una semplice spiegazione tattica come quella che ci offre Massimiliano. Certamente questa può essere una delle motivazioni, però parlo dell'atteggiamento, perché la Juve è stata chiusa in area dal Siena, che ripeto, considerato il palo colpito al 22esimo della ripresa, palo clamoroso, pieno, con Chimenti strabattuto e poi ha trovato il gol del pareggio con Ghezzal, Siena è vero che poteva vincere questa gara. Traffico. Strade in diretta. Tra traffico molto intenso in queste ore per i rientri del weekend, in particolare provenendo dalle località di villeggiatura. Le maggiori difficoltà in Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia, ci sono molti veicoli in viaggio lungo la carreggiata in direzione di Genova, con forti rallentamenti a partire da Pietra Ligure e fino a Genova. Code per traffico anche tra Rapallo e Genova sulla A12 Genova-Livorno. Sulla A6 Torino-Savona ci sono code per un incidente tra Altare e l'allacciamento con la A10 in direzione di Savona. Per quanto riguarda i cantieri, 3 km di coda sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Interporto Toscano e Lavoria verso Firenze, mentre in Calabria fino alle ore 20 è sempre chiusa l'A3 Salerno-Reggio Calabria tra Pizzo Calabro e Sant'Onofrio in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, noi ci risentiamo tra circa mezz'ora. A tempo di sport. Mi scrive Cagliari la seconda sconfitta consecutiva, Allegri sarà anche un ottimo tecnico, ma chi vuole dedicarlo con la rosa che si ritrova in Serie A, eccetera, eccetera, eccetera. Io ho l'impressione che ho detto prima sul Cagliari, che Giannino non aveva nessuna voglia di guidare il pellegrinaggio sardo in giro per l'Europa e probabilmente il messaggio è passato alla squadra, perché non trovo altre spiegazioni. Cagliari meraviglioso, solido, cinico in alcuni casi in questa stagione, che oggi poteva perdere 8-2 in tutta onestà a Genova, e questo 5-3 è a dire che è un risultato clamoroso nelle proporzioni, poteva essere ben più rotondo, ben più comico, passatemi il termine per favore. Roberto Milano, buonasera. Sì, buonasera, io volevo spendere giusto due parole sulla Juventus. Sì, volevo dire che questo qui è il fallimento dell'ingegnere Elkann e del suo fido scudiero il Messi Blanc, sì, che ha dimostrato durante tutti questi anni che forse le sue competenze è meglio che siano indirizzate di nuovo forse a Roland Garros, sì, dove ha fatto bene, ma credo che col calcio e con le società di calcio Blanc abbia veramente poco a che fare. Sì, la società gestita male e fa acqua da tutte le parti a livello comunicativo, che poi Comunicativo non lo so, no, guardi, Roberto, considerazioni possono essere corrette, certamente non sono inedite. La Juventus, società guidata da Blanca, ha lavorato benissimo su tutto quello che non riguarda il calcio stretto, che non riguarda il campo. Non lo so, perché aspettiamo ancora lo sponsor sulle magliette dell'anno prossimo, visto che per questi 3 anni ha dovuto fare riferimento a Mamma Fiat. Sì. Però lei saprà bene, sì, va bene, sono questioni di sponsor. Altre cose, però, sul piano imprenditoriale mi risulta che la Juventus abbia lavorato in maniera estremamente evoluta. Non mi sembra che ci siano molti stadi di proprietà in costruzione realmente, al di là delle chiacchiere, che siano molti stadi di proprietà in costruzione in Italia. Dire che hanno ereditato comunque il progetto dello stadio su quello che era la falsa poi del progetto. Lei sa perfettamente che passare dalla carta di un progetto ereditato ai mattoni messi uno sull'altro ne passa in questo paese, ma ne passa parecchio. A me risulta che quello stadio lo stiano costruendo, e questo, ripeto, non è una considerazione marginale, visto come ha messo il calcio italiano. Per quanto riguarda il campo, ha ragione, ma lo sappiamo tutti. Sappiamo che questa squadra ha speso un mucchio di soldi, ha ciccato diverse campagne acquisti una sull'altra. A proposito di Juventus, Del Piero, oggi giornata per lui importante, penso potesse essere un po' più felice per il capitano, quella dei gol numero 300 e 301. Ma c'è anche Maccarone, grande, che poteva vincere questa partita addirittura a Torino. Ve li faccio sentire dopo, perché prima voglio parlare con Andrea Schianchi, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Juventus abbastanza comica, quella di oggi, dicevamo. Però Andrea, il tema di questa giornata è che sembra che l'Inter si è insabbiata, ha i suoi 1000 problemi e non li sta affrontando neanche nel migliore dei modi, perché mi sembra che i nervi siano tesi oltre ogni ragionevole logica. Però le altre, aspettiamo il Milan di questa sera, la Roma non va più, dietro non ne parliamo, con la Lazio che non vedo dove possa fare punti, la Juventus vince 3-0 e fa 3-3 con il Siena, e poi vengono a parlare di approccio alla partita quando devi rincorrere il quarto posto, il Palermo perde a Udine, sembra che la benzina sia finita per tutti, eh? Ma mi sembra sì, che di benzina ce ne sia poca. Vediamo questa sera che cosa fa il Milan. Io credo sinceramente che per lo scudetto l'unica possibilità anti-Inter sia il Milan, ma questo pensavo fin dalla dal pareggio interno dell'Inter con la Sampdoria e dalla contemporanea vittoria del Milan-Pari. Questo perché il Milan in Italia quest'anno sta dimostrando di andare, al di là anche qui di ogni logica filosofica del calcio, perché non esiste secondo me una squadra più squilibrata del Milan, però stanno dimostrando che in Italia stanno riuscendo abbastanza bene. Sì, ma il Milan va perché la concorrenza è poca cosa, mi pare, sì, però secondo me la concorrenza è poca cosa. Leonardo ha trovato un sistema di gioco piuttosto semplice ma anche piuttosto produttivo in Italia, che è l'uno contro uno. Se tu sei più forte, generalmente con l'uno contro uno le partite le vinci. Sì. Però, sempre con questo sistema di gioco sei praticamente certo di perdere quelle che giochi contro squadre superiori punto di vista tecnico. Certo. E infatti il Milan ha perso nettamente i due derby contro l'Inter, perché l'Inter tecnicamente uno contro uno è più forte, e ha perso nettamente contro il Manchester perché il Manchester è nettamente più forte. In Italia però, in una corsa lunga 38 giornate, questo sistema di gioco può, alla lunga funzionare. Certo, non so come finirà chiaramente questa corsa, sì. Ripeto, l'Inter ha risorse nettamente superiori rispetto a quelle del Milan, il Milan deve giocare questa sera contro il Chievo e non sarà semplice. Se fossi io un giocatore, un tifoso o addirittura il dirigente che ci mette i soldi dell'Inter, sarei particolarmente arrabbiato, perché insomma il Milan ha venduto Kakà e ha comprato soltanto Huntelaar, che non è neanche suo lontano parente. L'Inter ha venduto Ibrahimovic e a fronte di questa cessione sono stati acquistati Lussio, Sneijder, Milito, Thiago Motta e Pandev, e forse me ne dimentico un altro. Ecco, essere a potenzialmente solo un punto di vantaggio dall'Inter dalla Milan con una simile rosa, francamente è sì, una delusione. È anche vero, Andrea, che lo stress da Europa, quando vuoi vincere sul serio lo paghi, ma lo sta dimostrando anche Chelsea e Manchester, che di recente le hanno prese dall'Everton, il Barcellona che domenica scorsa ha pareggiato in casa con l'Almeria, si è fatto raggiungere dal Real Madrid, che poi ha fatto la frittata in Coppa. Quindi un certo stress reale credo sia fisiologico se tu vuoi essere competitivo in Europa. Alla fine però mi sembra che l'Inter stia steccando la gestione di questo momento, passami la parola, di crisi, che poi vediamo cosa succede martedì prima di dire che è crisi sul serio, che alla fine è comunque prima. Mi sembra che la concorrenza sia di minor livello rispetto a quella che c'era nel campionato inglese e in quello spagnolo, e la squadra mi sembra pericolosamente sull'orlo di una crisi di nervi. Sì, sono totalmente d'accordo con quello che hai detto, nel senso che lo evidenzia il caso Balotelli, che è stato appunto sentito malissimo, lo evidenziano certe uscite di Mourinho, lo evidenzia tutto sommato il motivo per cui Mourinho si è beccato 3 giornate di squalifica, esatto, che secondo me sono anche poche per la brutta immagine che ha fatto, insomma, e che ha mandato in giro per il mondo. Lui è un allenatore abituato indubbiamente a tenere sulla corda i giocatori, a vivere soprattutto di tensione, a far vivere di tensione le partite, però francamente questo mi sembra un tantino esagerato, così come mi sembra esagerato il fatto che nessuno lo tocchi, nessuno lo critichi, nessuno perlomeno lo possa criticare, ma che lui sia il messia arrivato da chi da dove. Sì, sì, sì. Ma in ogni caso c'è sempre un Balotelli che ha una febbre presunta, c'è Raiola con il suo italiano pericolosamente improbabile, c'è lo stesso Moratti, non condivido questo atteggiamento, forse non vado a Londra, ma come non vai a Londra? La partita della vita. Sei primo comunque in campionato e vai a Londra gestendo un vantaggio, non vai a Londra a cercare un'impresa impossibile, irrealizzabile come era quella del Milan. Sì, no, non capisco neanche io certi atteggiamenti, però l'Inter negli anni ci ha sempre dimostrato che sa come farsi male con le proprie mani, quindi è possibile che ci riescano anche questa volta, mi auguro di no, perché insomma, se l'Inter andasse avanti in Champions League sarebbe certamente un vantaggio per tutto il movimento calcistico italiano, anche se dico chiaramente che il movimento calcistico italiano, intendo tutto il movimento, sì, deve davvero darci una svegliata, perché siamo indietro rispetto agli altri. Certo, grazie Andrea, buon lavoro. Grazie a voi. A presto, grazie ad Andrea Schianchi. Una battuta con Del Piero, vediamo se ce la facciamo. Non so, sarà tema di discussione. Credo che ci sia stato da parte nostra un po' di rilassatezza, forse anche un pizzico di fatica per giovedì, anche se sembra di forse di escluderla. Qualche errore in fase difensiva. E poi un anno che è così, forse. Noi vogliamo cambiarlo sicuramente, però di sicuro in quest'annata sta capitando di tutto e di più. Ora non ci vogliamo fermare in questo senso, ma e pensare positivo, ma è chiaro che non è un momento felice. Senti, possiamo fare la faccia di qualche errore, mentre De Piero diceva c'è stato qualche errore, c'erano le immagini che passavano su Sky di Grigera che regala a Maccarone il pallone del gol che ha riaperto la partita, quello del 3-1, ma regala, cioè da metà campo, passaggio all'indietro esattamente sui piedi di Maccarone che va verso la porta, i difensori centrali della Juventus che lo lasciano andare verso la porta, gli lasciano prendere la mira, lo lasciano calciare senza pressione addosso, alla faccia di qualche errore. Tempo di sport. Diversi ascoltatori domandano lumi sui risultati dei Manchester, lo United e il City impegnati oggi in Premier League. Ve li do subito. Innanzitutto quello finale con il Man U che ha battuto 3-0 il Fulham, con doppietta di quel mostro che è Wayne Rooney e gol di Berbatov, mentre il City di Roberto Mancini è sotto 1-0 con il Sunderland al quinto della ripresa. Questi i risultati. Con grande piacere torno a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24 è il numero verde. Tra poco parleremo anche un po' di Formula 1, mi sembra sia il caso. Gianluca Bergamo, sì, buongiorno, salve, dica. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. La seguo ormai da sempre. Bravissimo. E poi volevo fare una considerazione sull'Inter. Io sono tifoso interista da sempre, in sostanza. Sì. La seguo. Anche perché la squadra non si cambia, lei mi insegna. Mai, mai. però questa squadra ha sempre avuto un grosso problema, nonostante la grande società, i grandi giocatori, i grandi manager che abbiamo avuto. Secondo me il problema lo si è visto già da tempo, ma lo si è evidenziato a Catania, guardando solo l'allenatore del Catania rispetto alla nostra panchina. Cioè il carisma, la carica, la mentalità che noi non abbiamo in queste partite. Beh, e non riusciamo ad avere nei momenti più difficili. Gianluca, io non generalizzerei, perché quanto a carisma mi sembra che Mourinho un pochino ce l'abbia. Sì. Era in tribuna, poi c'era Beppe Baresi, ne parlavamo anche ieri con Andrea Zorzi, è incredibile il peso specifico, ma io ci credo a questa cosa, che Mourinho ha sulla squadra, e è incredibile quanto pesi la sua assenza dalla panchina. Normalmente l'assenza di un allenatore dalla panchina pesa zero quasi. In questo caso, avendo l'Inter il suo leader vero in panchina, mi sembra sia tangibile, no? il calo di tensione e di rendimento che ha avuto in assenza di Mourinho. Sembra incredibile, ma è così, ed è una sensazione che si può quasi toccare. Quanto alla a Catania lei ha ragione, però prima dicevo anche che chi vuole correre per vincere in Europa sul serio, e l'Inter vuole correre per vincere sul serio, momenti delicati nel campionato ce li ha. Facevo prima gli esempi dell'Everton che ha fatto fuori sia il Manchester United che il Chelsea a stretto giro di posta, dicevo del Barcellona che domenica scorsa ha pareggiato sul campo dell'Almeria, che ha 30 punti nella Liga, quindi vale grosso modo il Catania, e è stato raggiunto dal Real Madrid che poi ha fatto la frittata in Europa. Insomma, momenti di questo tipo ci sono. È vero che Barcellona, il Chelsea hanno competitors diversi, perché è vero che in Spagna è una corsa a due, però una corsa a due tra grandi. In Inghilterra, insomma, sappiamo bene qual è la situazione in testa alla classifica, tuttora da decidere, da decifrare. ha ragione quando dice che l'Inter, insomma, si avvicina, sta vivendo questi giorni in maniera un po' autolesionista, perché vuoi Balotelli, vuoi Raiola, vuoi la febbre presunta, vuoi Moratti che dice non so se vado, vuoi il conto salatissimo che l'Inter ha pagato quella serata di un po' di pazzia contro la Sampdoria. Insomma, un po' troppa tensione, un po' pochi nervi saldi, un po' poca freddezza nella gestione di questi momenti che sono fisiologici, secondo me. Alberto, Modena, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti innanzitutto. Io volevo chiederle un favore. Dica. Cioè, in questo senso, lei un mese fa disse che non sapeva come potesse fare l'Inter a perdere questo scudetto. Sì. Qualche mese fa disse che non sapeva come avrebbe fatto il Bologna a salvarsi. Sì. A questo punto si chiede come favore di augurare al Bologna di non vincere mai lo scudetto, così anche noi poveri bolognesi forse riusciremo a vincerne uno. Va bene, i pronostici non sono mai stati il mio forte. Io continuo a pensare che non so come l'Inter possa buttare questo scudetto, e lo ripeto anche oggi, che vediamo se il Milan va a meno uno. Chiaro che Milan e Roma sono lì sotto la finestra ad aspettare che l'Inter lo butti e magari succederà. Però è un Inter che lo butta, non sono gli altri due che lo vincono, ma come testimonia l'andamento stesso del campionato, come testimonia nei confronti diretti, come testimonia, vediamo stasera al Milan, ma oggi la Roma che aveva ragione prima Massimo Callegari, aveva di fronte l'occasione della vita in queste partite, perché con l'Inter che perde a Catania oggi vai a Livorno e cerchi in tutti i modi di vincere una partita che sembrava già vinta, poi domenica prossima l'Udinese in casa e l'Inter va a Palermo in queste condizioni, e dopo Londra vediamo come sta, perché è fatale che se l'Inter passa il turno dovrà versare tutte le sue energie in Europa, se non passa il turno avrà un contraccolpo pesante, insomma è il momento chiave della stagione dell'Inter. Ripeto, però non mi sembra che la concorrenza sia così reattiva, così preoccupante per l'Inter, che comunque vada stasera si ritroverà comunque in testa alla classifica, anche eventualmente nella gestione di un solo punto di vantaggio. Le mie considerazioni, ripeto, il Bologna è veramente una sorpresa, bravissimo è stato Colomba, è una squadra che secondo me non è granché competitiva a livello di organico, però nella pochezza del campionato italiano possono succedere anche queste, possono essere scritte anche queste belle storie. Massimo da Massa, buonasera. Sì, buonasera a lei. Senta, volevo intervenire sulla Lazio, La vicenda della Lazio mi sembra segnata da molti anni di aver messo in disarmo questa squadra, parte dai tempi in cui è stato spalmato il debito, e la Lazio ha fatto dei bei campionati malgrado questo. Io devo dire che mi meraviglia poco, dato che ha messo nell'ultimo anno ha venduto o ha messo in condizioni Pandev di non giocare, mi sembra che abbia messo quindi un po' in disarmo la squadra. Non mi meraviglia molto il fatto che si trovi nella posizione in cui si trova, poi potrò sbagliare, ma insomma. E se mi consente un'ultima notazione. Prego. Sul nostro campionato, sul fatto che noi parliamo molto delle brutte figure, io sono milanista quindi faccio ammenda, faccio mia colpa delle ultime vicende, però mi sembra che francamente il calcio italiano impieghi male i propri denari dal punto di vista della pianificazione a livello di liste di strutture, di possibilità di... Si viva molto sugli acquisti, sulle ripianificazioni da parte dei presidenti. Il mio presidente è stato uno dei primi a fare questo. Certo. Oggi Moratti ripianifica 154 milioni. Sì, sì. Ma se si pensasse un po' più a costruire stadi, porti accoglienti... Il tifoso della Juventus diceva questa dirigenza totalmente fallimentare. No, totalmente se parliamo di competenza sul versante strettamente calcistico. Per il resto mi sembra che per l'appunto si stiano mettendo i mattoni, non si stiano facendo i progetti, non si stiano facendo chiacchiere a Torino per quanto riguarda la questione stadio. Ma io condivido tutto quanto lei ha detto, salvo un appunto. Nonostante la gestione fallimentare dei casi Pandev e Desma, che è stato l'inizio di questa valanga che sta travolgendo la Lazio, se guardiamo, è vero che la Lazio ha fatto dei campionati straordinari, inimmaginabili nel recente passato con degli orossi alla guida, oltre anche le sue potenzialità, che questo sia un organico, che questa sia la logica conseguenza, che questo sia un organico da retrocessione, no, perché comunque è un organico che vale ben più del Bologna. Parlavamo prima del Bologna, di diverse squadre che stanno davanti alla Lazio, del Chievo, del Catania, insomma di tante squadre, un organico è un organico non da squadra che con, a questo punto credo con ogni probabilità andrà in Serie B, perché non vedo appunto come sia possibile invertire questa tendenza anche e soprattutto alla luce della partita di oggi. Traffico. Strade in diretta. Sono molti ancora i veicoli in viaggio lungo i luoghi di villeggiatura quest'oggi, disagi soprattutto per chi viaggia in Liguria sulla 10, ci sono molti veicoli in viaggio lungo la carreggiata verso Genova, con forti rallentamenti a partire da Pietra Ligure fino a Genova, code anche tra Rapallo e Genova sulla 12 Genova-Livorno. Andiamo sulla 6, la Torino-Savona, perché ci sono code per incidente tra Altare e il bivio con la 10 in direzione Savona, e per un cantiere 3 km in aumento tra Carrù e Fossano in direzione Torino. Poi ci spostiamo in Toscana sulla 11 verso Firenze, code per un tamponamento tra Chiesina Uzzanese e Pistoia, e per i cantieri 3 km di coda sulla Firenze Pisa Livorno tra Interporto Toscano e Lavoria verso Firenze, mentre in Calabria fino alle 20 è sempre chiusa la 3 tra Pizzo Calabro e Sant'Onofrio in entrambe le direzioni. È tutto, ritorniamo tra circa mezz'ora. Promo 24. In un futuro sempre più ecosostenibile, anche la stampa ha il suo ruolo. Chi stampa molto a colori, scegliendo una stampante o una multifunzione Xerox a inchiostro solido, non solo ottiene un'alta qualità di stampa anche su carta riciclata, ma rispetta l'ambiente, perché grazie ai colori costituiti da materiali naturali e atossici, viene prodotto il 90% in meno di scarti rispetto alle normali stampanti laser. Le stampanti e i multifunzione Xerox Solid Ink sono velocissimi e pronti a far risparmiare ancora di più, perché chi rottama la propria stampante entro il 30 aprile avrà fino a 300 euro di rimborso a scelta 450 alberi piantati grazie al programma ONU Pianta un miliardo di alberi. Per condizioni e offerte, xerox.it/promo. A tempo di sport. Fa piacere ricevere messaggi del tipo: lei è sfacciatamente interista, incredibile, non è obiettivo. Mi fa piacere anche perché chi mi conosce anche solo un po' sa benissimo che non è così, non sono interista. E la squadra non si cambia, la squadra non si cambia mai. No, ma semplicemente posso sbagliare, e certamente sbaglio un sacco, però cerco di, non essendo particolarmente tifoso, cerco di guardare le cose. Le cose nel modo più obiettivo possibile. Poi per il resto faccio un sacco di errori e dico un sacco di stupidaggini, me ne scuso. Adesso la Formula 1, però poi di nuovo gli ascoltatori, di nuovo il calcio. 800 24 00 24, prenotate, abbiamo tempo fino alle 7 come al solito. Mario Poltronieri, buonasera. Buonasera, ciao Carlo, buonasera a tutti gli ascoltatori. Subito rosso di moda, Sì, nel doppio deserto. Sigillo Ferrari. Direi che è stata una corsa molto interessante dal punto di vista della valutazione. Di solito si dice all'inizio del campionato non si possono dare giudizi. Qui mi pare invece che sia stato abbastanza chiaro, con questo inizio del nuovo regolamento, la scala dei valori. La Ferrari ha confermato di essere lo stesso, anche veloce sul giro singolo, nelle qualifiche, e ha confermato il passo di gara. La Red Bull, si sapeva, era una grande avversaria, e Vettel è un altro che tira il mondiale come Alonso. Alonso, visto oggi, è sicuramente quello che ha più possibilità se la scala dei valori rimane questa. Però dopo la Ferrari e la Red Bull, le altre due che si attendevano, cioè la McLaren e la Mercedes, sono andate piuttosto male. Diciamo che Hamilton, da quell'abile guidatore che è riuscito, nel momento in cui aveva le gomme che gli andavano meglio, a recuperare parecchio e arrivare addirittura al podio grazie al rallentamento di Vettel. Ma per quel che riguarda invece la Mercedes, mi pare che la situazione sia piuttosto critica, e già che parliamo di Mercedes accenniamo a Schumi, che era molto atteso e che purtroppo si è dovuto accontentare semplicemente di un sesto posto, ma ottenuto poi con una gara in colore. E c'è una ragione tecnica, anche se dal punto di vista sportivo è noioso parlare di tecnica, però il problema è che questa macchina col nuovo regolamento è più lunga e con le ruote anteriori più strette, che è un tipo di vettura che non si adatta al tipo di guida di Schumi. Adesso si tratta di vedere quando, quanto e come lui riuscirà ad adattarsi alla macchina. Mario, tornando, mi sembra sorprendente il fatto che tu riesca comunque a dare un giudizio già piuttosto preciso sul valore assoluto della Ferrari. Sono davvero così chiare le gerarchie? Mi sembra che la Red Bull sia una macchina molto competitiva ma estremamente fragile, che la Ferrari è stata intelligente a far cuocere nel corso del weekend, pole position e poi primato in gara fino a 15 giri dalla conclusione, poi ha avuto i problemi che l'hanno portata al quarto posto. Davvero ti sembra così forte la Ferrari? Beh, diciamo che in valore assoluto, non facciamo i confronti con l'anno passato, che addirittura siamo in un'altra era, ma comunque francamente io non credevo che fosse tanto superiore alla McLaren e alla Mercedes. Della Red Bull fino all'ultimo non si è capito bene, ma non dimentichiamoci che Alonso è sicuramente un valore aggiunto notevolissimo. Sì, sì, certo. Quindi certo. Già questo facilita il discorso della Ferrari, ma soprattutto è stata la sensazione che la squadra sia radicalmente cambiata, cioè nel tipo per esempio di organizzazione, ha affrontato le due giornate di prove direi in controtendenza rispetto a tutto quello che facevano gli altri, tant'è vero che i giornali titolavano la Ferrari indietro. Invece la dimostrazione del risultato di oggi è proprio quello, che evidentemente hanno capito come devono lavorare e di cercare di progredire. Certo, la Red Bull e Vettel vanno fortissimo, si tratta di vedere, la Red Bull ha qualche problema di affidabilità, in partenza si era visto quel problema alla ruota di Webber, questa rottura dello scarico sì, può essere una cosa che ogni tanto succede, che fa perdere molta potenza, però comunque dimostra, come tutti ti dicono, che questa vettura progettata da Adrian Newey è sicuramente al limite. Si tratterà di vedere se riescono a darle affidabilità. Oggi come oggi è la sfidante ufficiale della Ferrari, gli altri sono piuttosto indietro e quindi io vedo Alonso molto ben messo, ecco, con questa situazione. Poi mi fa piacere ricordare che di tutti i debuttanti su cui tutti ridevano, almeno le due Lotus, almeno quelle che riportano il nome della Lotus nelle corse, sono riuscite almeno ad arrivare alla fine, perché tutte le altre hanno avuto dei problemi, ma qui è inutile andare a approfondire questo discorso dell'aumentare le squadre, però avere meno spese e così via. Ho poi notato che si pronosticava addirittura il cambio delle gomme in un secondo e otto, vedo che sono rimasti sui tempi dei 4 secondi abbondanti, sui tempi umani e fisiologici, Mario. Ascolta, per tornare al discorso Schumacher, tu dicevi che c'è una motivazione tecnica ben precisa dietro questa gara in colore, di questo ritorno tutto sommato in colore di Schumacher. La grande domanda di quest'anno è al di là di questo inconveniente, di queste difficoltà tecniche, è ancora il più forte pilota del mondo? Beh, il più forte, diciamo, lui parla di ruggine, sicuramente la ruggine ce l'ha. Ho l'impressione però che i giovani, e soprattutto Alonso, che non dimentichiamoci è stato un suo grandissimo avversario, non so se ti ricordi quella corsa di Imola in cui Schumi tallonava Alonso e non è mai riuscito ad attaccarlo veramente. Quindi mi sembra un po', si ripete un po' la situazione mutatis mutandis tra Senna e Schumi, appunto, cioè il giovane che cresce. Alonso non è in realtà giovane, perché essendo già 2 volte campione del mondo e vuol dire che di carriera ne ha già fatta tanta, però ha l'entusiasmo del giovane e oggi ha voluto anche mettere, se così si può dire, in chiaro le gerarchie, chiarire le gerarchie, così come ha fatto Hamilton nei confronti di Button. Adesso si tratterà poi di vedere in realtà le macchine che problemi hanno e quale sarà la successiva messa a punto, però io ti dico, la gara di oggi, che complessivamente è stata abbastanza noiosa, se non ci fosse un entusiasmo per la Ferrari, perché non è che la situazione, cambiando il regolamento, si abbia fatto vedere tanti sorpassi. I sorpassi che abbiamo visti sono stati in funzione di Vettel, che ha rotto lo scarico, e poi quello dei team relativamente deboli, che ovviamente venivano superati. Ma per il resto, lo stesso Alonso nelle sue dichiarazioni ha detto: sono riuscito a passare, se non avessi passato subito Massa, la corsa sarebbe stata diversa. Quindi a lui ammette a priori che il sorpasso, il primo sorpasso è fondamentale, e allora a questo punto io mi domando anche: ma Massa è stato molto buono oggi, perché non gli ha tagliato la strada? Sì. È vero, e alla fine comunque la scenetta era quella di Alonso sul cofano della Ferrari con i pugni verso il cielo, e di Massa che non aveva propriamente la faccia di uno felice. Poverino, d'altra parte devi pensare che quello che ha passato, dimostrare di riuscire a ottenere questo ritmo è un'ulteriore conferma che lui sta bene, ma che anche la Ferrari cammina. Sì. No, io direi che sulla Ferrari possiamo stare abbastanza tranquilli. Ho una sola incognita che cercherò poi di chiarire: come mai hanno cambiato i motori? Ma può darsi, voglio fare la fantascienza, hanno dei motori, siccome non penalizzano quando cambi il motore prima della gara, allora hanno pensato di utilizzare un motore preparato da record per fare la sì. qualifica, e poi mettono un motore più tranquillo per fare la corsa, perché non dimentichiamoci che verso la fine Massa ha avuto qualche problemino alla macchina, ma in particolare gli hanno segnalato di moderare la velocità in funzione dei consumi. Sì. Quindi il problema dei consumi può esserci, non dimentichiamoci che nelle prove si dava, senza in realtà nessuna documentazione precisa, però una scala di valori che diceva i motori che consumano mai meno sono i Mercedes e i Williams. Però anche Renault è andato abbastanza bene, perché Renault è il motore. Certo. Ecco, giustamente si diceva il motore Renault lavora con temperature molto alte, quindi in quelle condizioni difficilmente avrebbe potuto reggere, ed ecco perché ha rotto lo scarico. Non credo, la rottura di scarichi molte volte è proprio legata alla costruzione, alla fabbricazione, sì. che è molto molto molto laboriosa. Sì, è anche un inconveniente, non ti dico frequentissimo, però non è uno dei più inediti. Mario, grazie, alla prossima. Okay, ormai siamo partiti, grazie a Mario Poltronieri, ormai siamo partiti, tra poco parte anche il Moto Mondiale per la stagione dei motori. Francesco Modena, poi ci fermiamo un attimo. Francesco, buonasera. Buonasera, io chiamo Modena in questo momento perché sono appena arrivato a Modena, ma sono sì. napoletano e vengo da Napoli. È in viaggio. Sì, sono in viaggio. In onore della Ferrari, sono appena passato per Maranello, per dire la verità. Suonava le campane. volevo chiedere un'opinione sul Napoli. Sì. Che io ieri sono stato allo stadio, sinceramente è un periodo che secondo me il Napoli non gioca male, ma gli gira male. Sì. Io sento molte ieri sera anche Sconcerti a Sky che parlava che il Napoli non ha gioco, cioè per me ieri sera il Napoli ha dominato contro la Fiorentina. Francesco, però non ha chiuso la partita al di là dell'arbitro. Esattamente, quello è stato il problema, che dovevano chiudere la partita e la Fiorentina più cinica in due occasioni ha messo il pallone dentro. Francesco, questa è una colpa precisa, però una colpa tecnica, non gira male sì fino a un certo punto, però la realtà è che il Napoli è una squadra che ha problemi offensivi, che ha fa una grande fatica a segnare, e c'è questo equivoco Quagliarella che perdura, no? Sta giocando una stagione disgraziata Quagliarella. Lavezzi è uno che probabilmente, una squadra come il Milan, faccio per dire, sarebbe determinante nel Napoli, giocando da seconda punta e quindi dovendo cercare il gol, è uno che la porta non la vede Quagliarella, Lavezzi, e con Quagliarella in queste condizioni che deve giocare per forza, e ancora non capisco perché, se non spiegandomi l'obbligo di giocare con Quagliarella per questioni di mercato, insomma, per quello che è stato pagato. È un problema preciso questo, al di là dell'episodio, al di là dell'episodio. Poi devo dire che nella gestione del dopopartita De Laurentiis e Mazzari sono stati molto bravi, ma perché sanno benissimo che non si spiega con un episodio questo difetto del Napoli. Capisco. No, non è d'accordo? Non lo so, io forse vedo il calcio in maniera differente, ma io la squadra come la vedevo un mese e mezzo fa non la vedo diversa, anzi fa molto, esprime molto gioco. Poi probabilmente Lavezzi non vede la porta, viene anche da un infortunio importante, deve riprendersi, ma ieri come caratteristiche, ha fatto un macello nella difesa della Fiorentina. No, ma lui faccia un macello nella difesa della Fiorentina, è indubbio questo, Francesco, solo che non è una sua caratteristica, ma come spesso succede anche per i grandi attaccanti, non ha nel fiuto del gol, nella freddezza in zona gol, la sua migliore caratteristica. Lavezzi non sarà mai, io credo, un giocatore a 15 gol a stagione, ma proprio per caratteristiche tecniche, però magari uno che te ne fa fare 20, deve avere però un attaccante, una prima punta che la butta dentro, e in questo momento non è Quagliarella, e Dennis non è esattamente al top, top mondiale tra le punte centrali, diciamo così, anche se è un giocatore, è giocatore offensivamente più importante, perché è l'unico con quelle caratteristiche. Ci fermiamo un attimo, grazie Francesco. 800 24 0024, vi aspetto.

Moreno non c'è, adesso lo recuperiamo. Classifica marcatori di Natale 19, Milito 16, Gilardino e Pazzini 13, Matri e Pato 12, Borriello e Maccarone 11 con 10 gol, Miccoli e Francesco Totti con 9, un sacco di giocatori tra cui Adailton, Borriello, stesso Cavani, Floro Flores, oggi autore di una doppietta, e Hamsik, altro interrogativo secondo me in chiave napoletana, perché sta vivendo un momento di involuzione imbarazzante. Marek Hamsik, giocatore che è in grado di fare la differenza soprattutto nel Napoli, è il vero trasformatore di energia, credo, per il Napoli, sta vivendo un momento pessimo. Roberto da Vicenza. Buonasera. Buonasera, buonasera, dica. La sento quasi tutte le domeniche. Benissimo. Ha fatto una considerazione bellissima sul Napoli. Cioè? Perché Quagliarella, per carità, è costato tantissimo, deve giocare. Io quei due attaccanti, due o tre giocatori che ha il Napoli, a cominciare da Vezzi e soprattutto Amsic, ti credrei molto bene alla Juve. Sì, anch'io. Anch'io. Ma non solo alla Juve, al posto di un certo Diego anche. Ma perché oggi ho visto Diego, secondo me, di Juventus. Sì. Sono stato entusiasta e dopo, per carità. E Diego era in panchina oggi, che da lì è partito, insomma, ma non necessariamente, secondo me Diego è comunque un giocatore che va rivisto l'anno prossimo, uno di quelli cui io concederei fiducia, anzi, che e la Vezzi li vedrebbe bene a Juventus, ma li vedrebbe bene anche in molte altre squadre, per la verità, perché sono due giocatori che a me piacciono moltissimo. È chiaro che se a la Vezzi chiedi dei gol hai sbagliato indirizzo, perché i gol la Vezzi te li fa segnare se hai almeno un grande attaccante in grado di timbrare il cartellino con regolarità. Troppo che anzi che Quagliarella e Lavezzi sia una coppia offensiva piuttosto mal assortita come caratteristiche tecniche. Sarà una mia fissa questa, però mi pare che i risultati, il monte gol del Napoli lo stia a dimostrare. Anzi, che è quello che è in grado di coprire queste falle, perché è un centrocampista con grandi tempi di inserimento ed è uno che fino adesso ne ha fatti 9 e sta vivendo un momento poco brillante, ma lui sì è un giocatore che può essere stabilmente in doppia cifra in classifica marcatori. Moreno da Pisa, buonasera. Salve, buonasera. Dica. Io volevo fare una considerazione sulla partita della Juve che ho visto, e purtroppo diciamo questa partita è un po' lo specchio di quest'anno, di questa squadra. C'è una squadra che ha delle ottime individualità, alcune, sì, ma troppi giocatori troppo scarsi. Mi riferisco specialmente alla fase di difesa. Sì. Grieg era assolutamente improponibile, io non lo farei giocare, cioè non della Juve, ma cioè, con rispetto, ma cioè, non lo farei giocare proprio in Serie A. Sì. E altri giocatori, lo stesso Felipe Melo, assurdo, oggi è una partita incredibile. Felipe Melo, quindi, ho paura che sia bruciato nell'ambiente juventino, perché insomma, oggi ha avuto anche una reazione che fin qui non l'avevo visto. Nei confronti del pubblico molto vistosa. Sì, però. Io penso anche che insomma, la pazienza debba avere un limite, nel senso che non è facilissimo star lì e prendersi gli insulti a prescindere, no? Quindi oggi Felipe Melo ha avuto questa reazione molto vistosa, certamente inelegante nei confronti della tifoseria juventina, però ho l'impressione che a Torino sia un po' bruciato, non lo vedo come un giocatore su cui costruire il futuro, ecco, da un punto di vista ambientale, forse anche tecnico, ma è insomma un altro acquisto molto costoso che si è rivelato non esattamente azzeccato da parte della Juventus. Questo però ciò non toglie che continua a considerare Felipe Melo un eccellente giocatore, tant'è vero che Dunga, che non è esattamente l'ultimo della pista, anche se in molte scelte non mi convince, lo ha pressoché sposato perché sarà il centrocampista davanti alla difesa titolare ai mondiali, e su questo non ci piove. Però insomma, la Juventus così è, squadra male assortito, l'impressione, ho ormai la certezza la Juventus. Grazie Moreno, adesso andiamo a trovare in Spagna un mio amico che ha avuto una settimana credo non semplice, Filippo Maria Ricci, buonasera. Buonasera. Parlavo domenica scorsa. Tu immagina se il Lione dovesse. Esatto. Sì. E così è stato. E così è stato. Il funerale blanco qui. Kakà non convocato per la partita di oggi, quindi non, non problemino, è... problemino. Sì, problemino. Questa l'ho già sentita in, in altre circostanze. No, problemone perché Kakà, insomma, al di là della giustificazione formale, cioè problemi agli adduttori, credo, non mi ricordo neanche. Sì. Però è chiaramente nel momento più difficile della sua carriera. Sì, senza dubbio, tante piccole cose che diventano grandi. Voglio dire, è già la seconda volta che contesta un cambio, perché tutti adesso ovviamente era in Champions League, quindi la sua sfuriata al momento del cambio ha fatto più notizia, però lui ha fatto lo stesso, mi sembra, col Tenerife, una squadra piccola, adesso le confondo un po', poteva essere lo Xeres o il Tenerife. Sì. E uguale, è cambiato, lì partita invece, qua la partita, diciamo, risultato acquisito, nel senso che lui poi ha detto no, io ero sicuro che andassimo fuori, no? E, a parte che mancavano 12 minuti o 14, quindi già questo, poca fiducia, però in generale era successo un'altra volta e lui di nuovo anche lì aveva dato un po' in escandescenze, e cosa che per Kakà è assolutamente, cioè Kakà non è un Cassano qualsiasi, insomma, certo. No? Non è che uno che è abituato a contestare, a dire la sua continuamente, e quindi vuol dire che la situazione non c'è. E poi a me ha divertito molto questo, come si può dire, tutta anche questa parentesi comica del Twitter, il suo ufficio stampa e poi la moglie che criticano l'allenatore. Mi sembra che adesso pensare che Kakà si debba anche difendere la propria immagine vuol dire che siamo proprio in crisi. Sì, non c'è dubbio. Senti, ma Kakà lascerà Real Madrid alla fine della stagione, come hai scritto già sulla Gazzetta, come si dice da molte parti, e come io credo anche la stampa madrilena stia indirizzando. Però questo è un ragazzo che è costato 65 milioni e prende 9 milioni di euro l'anno, netti. Mm. Per cui, sai, lascia Real Madrid, dove va? Chi ce li ha? Al Barcellona, no? Esatto, ho visto oggi l'intervista di Dani Alves che ho fatto oggi sulla Gazzetta, ha avuto qui un impatto tremendo. Beh, devo dire che la risposta che lui mi ha dato su Dani Alves, era tempo che io non sentivo un calciatore diciamo darmi una risposta così in maniera onesta, e, a parte Guti quando parla delle discoteche, è stato altrettanto onesto, però quello è un altro tema. Cosa dice Guti? No, Guti che dice no, dice io, dice, perché non ci vedo mio padre che ha 60 anni in discoteca alle 5 di mattina, dice, però a me mi ci vedo, che ne ho 30. Però dai, torniamo a parlare di Kakà, mi divertiva anche Guti, per la verità. No, vabbè, forse fa divertire di più in realtà. No, il discorso è che no, Dani Alves secondo me ha ragione quando dice, voglio dire, nel Milan si giocava per lui, nello spogliatoio erano tutti con lui. Arrivi qua, e noi l'abbiamo fatto già tante volte questo discorso, no? Tra noi due, vuol dire, arrivi, c'hai mille altri giocatori di vario peso, no? Cristiano Ronaldo, Raul, Guti, Casillas, Sergio Ramos, Xabi Alonso, Benzema, Higuain, vuol dire, ognuno ha la sua storia, no? Chi va meglio, chi va peggio, uno in declino, l'altro in salita, però vuol dire, lui è uno dei tanti. E non lo so, anche questa incontinenza verbale della moglie su Twitter è strano, perché vuol dire adesso che lui, adesso vedete, bellissimo, hai visto come io ho scritto, gli ha tolto l'applicazione dall'iPhone, è sparita la ragazza. Ah, sì? Da Twitter, sì non posta più niente proprio, non, neanche prima mandava dei messaggi su Dio, vi voglio bene, Dio è grande, cos'è, ci protegge a tutti, adesso neanche più quello proprio. Certo che tra Twitter e Facebook in ambito sportivo, non solo calcistico, fanno più danni della grandine, perché uno deve sapere usare, voglio dire, ma voglio dire, ti legge chiunque, voglio dire, è chiaro che ci siamo anche noi giornalisti, che se tu mi scrivi una cosa, se tu mi dici, se io siamo un po' arretrati tecnologicamente, ma non abbiamo l'anello al naso, Filippo, lo dici. No, insomma, voglio dire, se io sul sito, cioè sulla pagina personale della moglie di Kakà, vedo definito Pellegrini un allenatore codardo, può darsi che mi interessi. Sì, può darsi che ti interessi. Senti, stai lì che c'è il traffico, poi torniamo. Traffico. Questo è il suono del design. Questo è il suono della tecnologia. E questo il suono della nuova BMW Serie 5. Dall'incontro di tecnologia e design, nuova BMW Serie 5, bellezza da esplorare. Con BMW Efficient Dynamics, cambio automatico a 8 rapporti e Driving Dynamic Control, in tutte le concessionarie BMW il 20 e il 21 marzo. Strade in diretta. C'è molto traffico in Liguria, sulla 10, molti veicoli in viaggio lungo la carreggiata verso Genova, con forti rallentamenti a partire da Pietra Ligure fino a Genova, code anche tra Rapallo e Genova sulla 12, Genova-Livorno. Ci spostiamo sulla 6, la Torino-Savona, perché ci sono code per incidente tra Altare, il bivio con la 10 verso Savona, e un cantiere con 3 km in aumento tra Carrù e Fossano nella direzione opposta verso Torino. Poi andiamo in autosole, è appena venuto un incidente nella carreggiata nord, code tra Valdarno e Firenze Sud. È sempre in Toscana sulla 11, un'altra coda per un tamponamento, siamo tra Chiesina Ozzanese e Pistoia. Cantiere sulla Firenze-Pisa-Livorno, 3 km di coda tra Interporto Toscano e Lavoria verso Firenze, mentre in Calabria ricordiamo che fino alle 20 è sempre chiusa la 3 tra Pizzo Calabro e Sant'Onofrio in entrambe le direzioni. È tutto, ritorniamo tra mezz'ora circa. Promo 24. Un'analisi recente ha evidenziato come la distanza media percorsa in auto giornalmente ha subito un incremento di quasi l'80%. Per questo i professionisti che guidano per lavoro hanno bisogno di un'auto confortevole ma dalle prestazioni sportive. Audi propone il nuovo allestimento Sport Edition Plus, proprio per combinare l'eleganza di A6 con la sportività tipica di Audi. L'allestimento Sport Edition Plus contiene i pacchetti S-Line e S-Line Exterior, il volante multifunzionale RS6, i cerchi in lega da 19 pollici e la calandra in nero lucido. Inoltre, fino al 31 marzo, è inclusa nel prezzo Audi Extended Warranty, che consente di guidare Audi A6 senza preoccupazioni per 2 anni oltre al termine della garanzia di legge o fino a 120.000 km. Informazioni su www.audi.it. A tempo di sport. A parte il fatto che io Kakà in una squadra che Kakà, che è un giocatore straordinario ed è un giocatore di calcio fantastico, non una foca ammaestrata, lo vedrei meravigliosamente in una grande squadra come il Barcellona, molto di più che in questo Real Madrid ancora molto scombinato. Però al di là di questo, Filippo, prima stavo facendo anche con gli ascoltatori un ragionamento. Si parlava di Inter, insomma l'Inter sta vivendo questa vigilia molto difficile nel return match con il Chelsea, però il campionato spagnolo e quello inglese insegnano, tra l'Everton che batte Manchester e Chelsea, tra il Barcellona che va a pareggiare ad Almeria, che lo stress da Coppa in questi momenti si paga, cioè che questa è una curva particolarmente delicata della stagione. Assolutamente, adesso il Barcellona va in campo alle 7, adesso col Valencia, un Valencia senza Villa e Mata, quindi non un grandissimo rivale, però il Barcellona ha vinto 2 delle ultime 5 partite. Quindi non è esattamente in gran forma, era piuttosto sembrava in forma il Real Madrid, questo anche è un tema interessante, il Real Madrid aveva vinto le ultime 6 in campionato, e quindi questo a me fa sempre un po' pensare che ecco, sì, è un momento strano della stagione per chi ha la Champions League, ed è un momento strano, cioè è un momento particolare nel senso che la Liga non è così, che sicuramente non è così competitiva, no? Perché il Real Madrid in casa ha vinto 13 partite su 13 facendo 44 gol, no? E sì, non è riuscita a far nulla col Lione. Però tornando a quello che dicevi tu, senz'altro chi punta veramente in alto, sì, questo è un momento delicatissimo, insomma, ecco. Posto che a Madrid la stagione è finita, no? Sì, anche se dovessero vincere la Liga non sarà mai, comunque, vuol dire, il 22 maggio qui, non so, giorno di festa nazionale per permettere a tutti di andarsene via, perché poi se ci arriva il Barcellona alla finale di Champions, è una situazione imbarazzante. Sì. Però, voglio dire, anche lì, loro avevano questa finale, hanno cominciato a parlare sicuramente troppo della finale, conta che, non so, il pallone della finale presentato il giorno prima di Real Lione, no? Mamma mia, che gatti neri! Mamma mia, sì, quanti capito, gatti! Nel calcio queste cose contano, sappiamo benissimo noi qui in Italia. Pallone della finale presentato il giorno prima di Real Lione, un gatto nero che ti attraversa la strada. Toglimi ancora una curiosità, Filippo, poi ti lascio lavorare. Ma Pellegrini, che è addirittura difeso da una parte dell'ambiente, della tifoseria madridista, come lo spieghi? No, questo, non so se loro hanno letto le stesse statistiche che ho letto io, che poi, perché qui ovviamente poi per non andare contro Florentino non le pubblica nessuno, però vuol dire, è vero che il Real è uscito negli ultimi 6 anni negli ottavi di Champions, però con 6 allenatori differenti, e se calcoli anche quelli che hanno fatto solo dei mesi e non hanno giocato, magari non hanno fatto gran parte della stagione, siamo a 8 allenatori in 6 anni. Allora voglio dire, probabilmente la gente non è così ottusa e dice va bene, magari Pellegrini sicuramente ha sbagliato e ha perso il duello con Puel mercoledì sera, questo senz'altro, però dice va bene, adesso lo cacciamo via e ne prendiamo un altro, e poi cosa cambia? E prendi Mourinho, che tra l'altro ti costa un sacco di soldi, quindi non è facilmente licenziabile. No, esatto, quindi la gente, però la gente non è una parte, cioè la gente si è schierata tutta per lo, perché guarda, è stato bellissimo, perché Marca è il giornale che va contro Pellegrini, lo vorrebbero cacciare adesso, no? Domani lo cacciamo, benissimo. Loro sparano, ed è un sito che è molto molto visitato, sparano i loro sondaggini e prima mettono, dice sì, lo cacciamo, e la gente, il 70% gli dice di no. Allora, vista la mala parata, lo levano e ne mettono un altro, il sondaggio è chi è l'allenatore della prossima stagione, il migliore, mettono una serie di nomi, no? Mourinho, Ancelotti, Benitez, Capello pure mettono, benissimo, per far numero. Tac, chi gli viene? Pellegrini di nuovo quasi al 70%. Allora voglio dire, mi sembra che l'indicazione sia chiara. Insomma, sì. Che alla fine il problema è Florentino. Ma certo, ma naturalmente. E la gestione della squadra così, voglio dire, siamo alle solite, insomma. Vedremo cosa, come andrà a finire, perché questo dicevano che era un progetto a lungo termine. Ma che lungo termine? Realtà... Qual è il lungo termine? Era a fine di maggio. Il termine ultimo lungo era alla fine di maggio. Qual è il lungo termine? Che è così. Però loro si riempiono la bocca dicendo questo. Poi dopo in realtà è chiaro che non è così, perché sono stati i primi così a creare questa euforia sopra sto 22 maggio, la finale, cose. Non è che la squadra viene costruita in un giorno, insomma. E poi se volevano uno che vinceva, allora che dovevano richiamare Capello. Per carità. Grazie. E con questo ci sentiamo domenica. Chissà cosa succede. Chissà cosa succede all'Asylum di Madrid. Grazie a Filippo Maria Ricci. Io torno con gli ascoltatori. Non prima però di aver detto che insomma, Mancini dice bene, perché al 91esimo c'è Johnson che trova una parabola di sinistro incredibile. Si va a infilare esattamente nel 7, un tiro molto liftato dal limite dell'area, bel gol per carità, però era il 91esimo e il City si risparmia una sconfitta 1-1 sul campo del Sunderland, parete che non è ancora finita però. Antonio D'Ancona, buonasera. Buonasera signor Genta, lei ascolta poi. Buonasera, dica. Niente, volevo fare due considerazioni se è possibile sulla partita di ieri Napoli-Fiorentina, in pratica sul Napoli, sì. Su Napoli in senso tecnico della squadra, sì. E sul mister del Napoli, sul signor Mazzarri. Sì. Allora, sul discorso tecnico, secondo me ieri si sono viste due squadre impostate diversamente, cioè per me il Napoli è una squadra da, diciamo, come impostazione di gioco da metà classifica, perché fa senso del furore agonistico, del pressing, delle ripartenze veloci, sì. Fa un po' del suo gioco, per cui è come una squadra quasi provinciale. Sì. Mentre Fiorentina, secondo me, fa un gioco da grande squadra, cioè dopo tante volte riesce, tante volte no, però un gioco manovrato, sì. Hanno anche un organico diverso, hanno anche un organico diverso e sono a stadi diversi di costruzione, perché il progetto Fiorentina va avanti da un po' su linee ben precise, quello del Napoli ha ancora linee differenti, no? Va bene, però dalle interviste presidente allenatore, ecco perché voglio lanciarmi allenatore, non si vince questo ragionamento, si vince che Napoli è una forte squadra in cui un allenatore precedente era stato un somaro e questo allenatore è molto bravo. Invece secondo me l'allenatore precedente cercava di impostare un tipo di gioco, secondo me la grande squadra, c'era il tempo, però, anche dei giocatori. Sì Antonio, però un po' troppo, insomma poteva essere un po' troppo prematuro, no? Io direi che comunque la faccia a questo Napoli, e non è una brutta faccia, gliela ha data Mazzarri. Donadoni non ci era riuscito, insomma mi sembra che Mazzarri al di là di tutto adesso sarà qualcosa da rivedere probabilmente, però ha fatto un lavorone con questa squadra, perché ha dato, dice mentalità da provinciale, però una squadra che ha fatto una grande stagione, perché ha una classifica pur in un periodo di flessione come questo a tutt'oggi meravigliosa. Pensare in maniera un po' più ambiziosa sarebbe stato un errore, no? Adesso si tratta da qui di partire e fare un altro e fare degli altri gradini, però insomma sembra che il lavoro di Mazzarri sia indiscutibile. È chiaro che è un allenatore molto attento alla fase difensiva, è un allenatore, le cui squadre subiscono molto poco ma spesso hanno difficoltà a trovare il gol. Farei un salto in Inghilterra rapidissimo da Lorenzo Amuso per sapere le ultime sul Chelsea. Ciao Lorenzo. Buonasera. Vigilia del Chelsea com'è? Una vigilia direi ottima. Ieri il Chelsea ha vinto 4-1 contro West Ham, ha giocato un ottimo secondo tempo dopo aver sonnecchiato nel primo tempo. Drogba ancora l'ennesima doppietta, la terza nell'ultimo mese e mezzo da quando è rientrato dalla Coppa d'Africa, in forma splendida, e la squadra gira bene. L'unico dubbio è in porta, perché c'è che difficilmente recupererà per martedì sera, quindi Ilario è assente, ma anche se fosse presente probabilmente sarebbe meglio che non giocasse. E quindi in porta ci sarà questo ragazzo di 22 anni che si chiama Ross Turnbull, che ieri ha esordito per la prima volta con la maglia del Chelsea in campionato. È un ragazzo promettente, però insomma bisognerà capire anche come saprà reggere la pressione dell'appuntamento, che qua ovviamente sta diventando un po' la partita crocevia della stagione, perché in campionato vabbè la lotta è aperta a 3 con il Manchester, che oggi ha vinto 3-0, è tornato al primo posto, e l'Arsenal come appunto terzo incomodo, però insomma si sa che il sogno di Abramovic è quello di vincere la Champions certo. League, e quindi come un po' l'ossessione per Moratti la Champions League, anche per il Chelsea chiaro. Insomma no, perdere poi contro l'ex Mourinho potrebbe avere anche degli effetti che vanno al di là diciamo del naturalmente, perché tutto il mondo del paese, anche l'Inghilterra, insomma è la sindrome Florentino Perez, il vero obiettivo di queste squadre, Inter, Chelsea, Barcellona, Real Madrid, è quel 22 maggio, finale a Madrid, e però se la piglia soltanto uno. Per gli altri ci saranno diversi problemi anche nell'impostare programmi futuri, immagino. Io ringrazio Lorenzo Muso, con cui chiudiamo questo programma, per poi riaprire la parentesi del basket. Come sapete, dalle 8:30 alle 9 vi aspetto per raccontarvi la giornata dei canestri. A dopo.